E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È ancora quella di oggi una giornata difficile sui mercati, anche se fino a qualche minuto fa sembrava volgere veramente al peggio. I dati sono sempre negativi. Se considerate che il FTSE MIB scende dell'1,25%, il FTSE All Share dell'1,15%, le cose vanno meglio paradossalmente, esattamente come ieri a New York, dove nonostante ci siano stati dei dati particolarmente negativi dal punto di vista macroeconomico, il Dow Jones lascia sul terreno appena lo 0,18%, il Nasdaq lo 0,04%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,39%. Da segnalare peraltro che al momento Milano è tra le borse peggiori d'Europa, insieme a Londra che perde l'1,24%, l'euro che quota 1,26,29 contro dollaro. Parleremo di mercati, naturalmente, come sempre faremo il punto sulla giornata di borsa appena chiuderà la borsa italiana, e poi faremo il punto anche sul mercato obbligazionario. Lo sapete, è un discorso che abbiamo accennato già ieri. Il nostro Walter Riolfi ci diceva gli scenari a questo punto, visti i così bassi rendimenti dei T-bond, ossia delle obbligazioni di Stato americane, sia dei bund, ossia delle obbligazioni di Stato tedesche, insomma, danno l'idea di un segnale pre-recessivo. C'è questo da segnalare, e appunto c'è da segnalare questo continuo calo di rendimenti e soprattutto l'andamento dei T-bond, delle obbligazioni americane, che evidentemente gli investitori reputano ancora in qualche misura un rifugio nonostante i grandi dubbi sull'andamento dell'economia americana. Parleremo di questo, sentiremo le voci che ci sono arrivate dal meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, perché oggi c'era un parterre economico importante a discutere di ripresa, ossia la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e il presidente dei generali Cesare Geronzi hanno parlato di crisi e non solo, hanno parlato naturalmente anche della questione Melfi, quindi di Fiat, della questione Pomigliano, della necessità di rivedere le relazioni industriali in questo paese. E poi toccheremo il tema di Tirrenia, perché ci si avvia ad un mese che deve essere quello della stretta finale, ma probabilmente il governo ha intenzione di chiudere un pochino prima. Per il 6 settembre, come sapete, sono convocati i sindacati, ve lo abbiamo detto ieri. E però la UIL Trasporti, che è il sindacato più forte di Tirrenia, ha confermato lo sciopero del 30 e del 31 agosto, e quindi a ridosso dei rientri dalle vacanze. E rimane la questione della privatizzazione. I tempi sono stretti, il 30 settembre è il termine ultimo imposto dall'Unione Europea perché si arrivi a una privatizzazione di Tirrenia. Approfondiremo questo argomento con Nicola Coccia, che è ex presidente di Confitarma ed è anche azionista di Mediterranea. Insomma, sta cercando di mettere insieme le due cose: da una parte la necessità che gli armatori si interessino alla vicenda di Tirrenia, e dall'altra parte appunto la questione di Mediterraneo, ossia la società che ha come primo azionista la regione Sicilia. Intanto le notizie in breve di questa giornata. Il petrolio era tornato a salire in avvio di seduta, poi sono arrivati i dati sulle scorte dagli Stati Uniti, aumentate la scorsa settimana di 4,1 milioni di barili, in aumento anche le scorte di benzina e quelle di prodotti raffinati, e dunque prosegue il calo, siamo intorno ai $71 al barile a New York. E come sempre accade, i timori sulla ripresa dell'economia spingono ai massimi l'oro, in particolare ai massimi da 7 settimane a questa parte. A New York le quotazioni avanzano fino a $1,243 l'once, il prezzo più alto appunto dal 1 luglio. Si diceva dei dati americani che hanno spinto al ribasso la borsa, di nuovo, così come ieri il Dow Jones è scivolato sotto i 10.000 punti, e però questi 10.000 punti l'ha poi recuperati, tanto che adesso è a 10.014 punti. Comunque, insomma, più o meno ci siamo. Se il trend prosegue così, questa soglia psicologica sarà sfondata al ribasso. I dati sono le vendite di case nuove, che sono crollate ai minimi dal 1963. Sono scese del 12,4% ad un tasso annualizzato di 276.000 unità. Anche in questo caso il dato è al di sotto delle attese degli analisti. Per quanto riguarda invece i prezzi, sono ai minimi dal dicembre 2003. E poi gli ordini di beni durevoli a luglio, una crescita dello 0,3% appena dopo il calo dello 0,1% del mese precedente. Le previsioni erano per un rialzo addirittura del 3%. Al netto dei trasporti si è registrato un inatteso ribasso del 3,8% contro il più 0,5% previsto. In questo quadro continua a rimanere alto il tema delle valute. C'è il nuovo record del franco svizzero sull'euro. Il franco svizzero ha segnato un massimo stamani sull'euro, rafforzato dalla fuga, appunto, dal rischio degli investitori. Sono la ricerca, appunto, di una valuta rifugio. Lo abbiamo già raccontato ieri, la divisa elvetica ha toccato 1,2987, il massimo di tutti i tempi. E dopo le voci di interventi delle autorità monetarie giapponesi, invece rallenta lo yen a 84,64 per dollaro. Invece, per quanto riguarda il cambio con l'euro, a 106,82, non molto distante da quel che era ieri. In effetti il premier nipponico Naoto Kan ha detto che le misure per affrontare la risa dell'ita dello yen devono avere la massima priorità. Dall'Europa ci arrivano le notizie che riguardano l'Irlanda, approfondiremo tra un attimo. Comunque l'agenzia di rating Standard & Poor's ha ribassato il rating sul debito dell'Irlanda a AA- da AA, sulla base del rialzo per lo Stato del costo di sostegno del sistema finanziario, e ha anche assegnato all'Irlanda un outlook negativo, e su questo nasce una polemica nei confronti di Standard & Poor's da parte del governo irlandese. Il tesoro irlandese è critico, dice: siamo in disaccordo perché l'agenzia prende in considerazione degli scenari estremi in merito ai costi di salvataggio delle banche. Insomma, secondo l'Irlanda, Standard & Poor's ha sbagliato i calcoli. Per quanto riguarda l'Italia, come si diceva, il quadro di giornata è dominato da due vicende: la vicenda Fiat e poi le dichiarazioni che sono arrivate dal meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Parla il presidente dei generali, Cesare Geronzi, che dice che la manovra economica varata dal governo si muove in una direzione corretta e l'impegno del governo è valso ad evitare impatti straordinari della crisi finanziaria globale. E sulle elezioni, questo governo ha il dovere di governare, se non avrà la maggioranza in Parlamento, allora e solo allora si vedrà perché andare alle elezioni e chi è l'autore della caduta del governo. Per quanto riguarda la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, più o meno la linea è la stessa: l'esecutivo deve andare avanti, segua il programma. Per noi la situazione è molto chiara. Questo governo ha ricevuto la fiducia della maggioranza dei votanti e dei cittadini tre volte: nelle elezioni politiche del 2008, nelle elezioni europee del 2009, nelle regionali del 2010. Si è presentato con un certo schieramento, si è presentato con un programma in alcune parti riformista importante, che noi pensiamo sia quello che serve. Allora adesso il governo deve smettere di litigare al proprio interno, deve portare avanti queste riforme, deve portare avanti questo programma, non ci interessa il resto, quindi il governo ha il dovere di governare e di andare avanti. Andare a elezioni in un momento come questo, con la situazione difficile che c'è, con i conflitti che ci sono, pensate a quale campagna elettorale avremmo davanti, è inaccettabile. Quindi il governo vada avanti, faccia quello che deve fare. Questa dunque Emma Marcegaglia, che tra l'altro ha messo in luce come la priorità in questa fase sia la crescita, chiede anche alla politica di essere concreta e composta, e poi interviene anche sui casi di Melfi e di Pomigliano. Insomma, quello che ha fatto Fiat su Melfi, dice Marcegaglia, è in linea con la legge e con la prassi. Il vero tema è l'esigenza di cambiare radicalmente le relazioni industriali. Così dunque Emma Marcegaglia. Più avanti sentiremo la voce della presidente di Confindustria anche su questo, così come la voce del presidente dei Generali Cesare Geronzi. Sempre a proposito di Melfi, c'è un'istanza presentata dalla FIOM. I legali della FIOM CGIL hanno depositato appunto al Tribunale di Melfi un'istanza affinché il giudice definisca le modalità di attuazione del decreto di reintegro emanato dal giudice del lavoro del 9 agosto scorso. Ci si riferisce ancora alla vicenda dei tre lavoratori della Fiat Sata, Giovanni Barozzino, Antonio Lamorte e Marco Pignatelli. L'avvocato della FIOM CGIL specifica che attende una risposta della magistratura. E però l'azienda replica: non è possibile per il magistrato che ha pronunciato il decreto intervenire nuovamente su un provvedimento già emesso, modificandone il contenuto o determinando le modalità di attuazione. Tutto questo, tra l'altro, fa seguito, lo sapete, alla lettera inviata ai tre operai dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, insomma, che auspica, come dire, un confronto pacato. E siamo al primo argomento di giornata, parliamo di mercati e in particolare di mercato obbligazionario. Sono un po' di notizie su questo fronte, naturalmente partono anche dalla notizia che vi abbiamo dato poco fa, ossia che Standard & Poor's ha tagliato il rating dell'Irlanda portando la doppia A meno. E quindi che cosa è successo? Che il premio di rendimento pagato ai titoli di Stato irlandesi rispetto al Bund decennale tedesco ha segnato un record, superando anche i livelli della crisi greca. Quindi il cosiddetto spread, e quindi questo premio di rendimento, insomma il differenziale di rendimento, viaggia a 343 punti base, un livello mai toccato nei 10 anni dall'euro. Un livello naturalmente spread fra i titoli di Stato dell'Irlanda e il Bund tedesco, molto alti anche i premi di rendimento degli altri paesi periferici, cosiddetti periferici dell'area euro: Portogallo a 312 punti, Spagna a 186, Italia a 159,4 e Grecia a 927. Come diciamo da qualche giorno, però, questo dipende anche dal fatto che molto semplicemente il Bund tedesco continua, il rendimento del Bund tedesco continua a scendere. A 10 e 30 anni siamo ai nuovi minimi storici, è sceso al 2,1% quello a 10 anni, e quello sui titoli trentennali al 2,647. Saluto Angelo Drusiani, responsabile investimenti di Banca Albertini Seeds, spesso ospite quando parliamo di queste cose. Angelo Drusiani, buonasera. Buonasera a voi tutti. Allora, così cerchiamo anche di rispondere all'ascoltatore, ci proviamo almeno, perché queste sono le domande più difficili. Al 349-238-6666 ci chiede: il double dip si sta veramente avvicinando, come sostiene Rosenberg, insomma siamo vicini ad una depressione oppure no? Perché che cosa si diceva ieri? Si diceva che un calo di rendimenti così vistoso per quanto riguarda i titoli di Stato americani e quelli tedeschi è un classico scenario pre-recessivo. Lei come la vede, Drusiani? Io credo che incida in parte importante nella quotazione di ambedue i titoli la ricerca di beni rifugio. Non va dimenticato che in particolare il titolo tedesco, già da un paio d'anni, dalla crisi del 2007, quindi 2 o 3 anni, è stato sottoscritto da milioni di investitori come se fosse un bene rifugio, come se fosse l'oro, come se fosse petrolio in certi momenti, esattamente con l'auspicio di non guadagnarci, ma di avere sicurezza e di far sì che il capitale resti integro. E di conseguenza credo che in buona parte ci siano sicuramente dei timori che la situazione dell'economia non sia brillante come ci si aspettava e che le crescite soprattutto in Occidente, saranno modeste, ma non va dimenticato che la crescita globale del mondo prosegue, perché Cina, India, Brasile, Russia, Turchia, Sudafrica, eccetera, stanno crescendo a buoni livelli, anzi a livelli molto alti, soprattutto in Oriente. Ora è un po' in crisi il Giappone perché si sta rivalutando eccessivamente lo yen, ma io credo che una buona parte della rivalutazione dei due titoli americani e tedesco sia attribuibile anche alla ricerca di beni rifugio. Sono un po' il materasso sotto il quale gli investitori mettono i soldi, diciamo. Esattamente, così. Esattamente. Se è veramente così, è chiaramente una fuga verso investimenti sicuri, cioè, e quindi lei ci diceva, sì, è vero come dice lei che India e Cina crescono, però l'idea di fondo di questo movimento di mercato, che comunque la crescita europea, la crescita europea in particolare, non sia così solida, c'è evidentemente. Assolutamente sì, come sta deludendo la crescita americana. Oggi abbiamo visto i dati sulle nuove case, sono crollate letteralmente il mercato immobiliare, dal quale l'economia americana si aspettava un contributo importante, in realtà non esiste. Così come non c'è stato contributo dalla bassa quotazione della moneta americana per lunga fase di quest'anno, e con un aumento delle esportazioni che è stato molto modesto e non ha contribuito a far crescere il PIL come le statistiche si aspettavano, come le previsioni si aspettavano. Quindi sicuramente, purtroppo noi occidentali, io credo, dobbiamo abituarci a non essere più i, tra virgolette, padroni economici del mondo, ma l'economia si sta spostando in maniera sempre più rapida verso i paesi definiti emergenti. Si considera che ancora quest'anno la Cina potrebbe crescere a livelli superiori al 10%, già sfruttando anche il proprio interno. Finora ha sviluppato la costa, ora sta sviluppando l'interno, quindi è evidente che c'è un chiarissimo spostamento. Perché la Germania rimane bene rifugio, perché i titoli tedeschi sono bene rifugio, ma perché la Germania va ancora bene con le esportazioni? Perché ha un interscambio con la Cina che è notevolissimo, molto forte, e questo le consente di aggrapparsi a una ripresa economica del paese orientale. Sì, ne abbiamo parlato spesso nei giorni scorsi, in effetti, insomma, la presenza tedesca in Cina, come si sono riorganizzate le stesse imprese tedesche per cercare di aggredire il mercato cinese, e non solo il mercato cinese, pensiamo a quello brasiliano, tanto per fare un esempio, è stata esemplare, se vogliamo. Le voglio chiedere questo però, Drusiani, ed è una domanda che ci poniamo da qualche giorno. Se veramente la condizione della ripresa americana è questa, cioè scarsina, per ammissione della stessa Fed, per ammissione dello stesso governo che continua a dire bisogna fare di più per stimolare la crescita, come mai, e aggiungiamo, e la condizione di debito pubblico americano unito tra l'altro a quello privato non è questo granché, anzi, come mai gli investitori continuano a considerare un bene rifugio il T-bond americano? La ragione, secondo me, è relativamente semplice. L'America gode di una moneta unica e di un paese unico. L'Europa, ahimè, ha una moneta unica di 16 paesi diversi. Quindi dal punto di vista della speculazione, l'impressione di attaccare i paesi europei è molto più semplice. Si attacca prima la Grecia, poi l'Irlanda, poi la Spagna, poi magari l'Italia in un secondo tempo. Perché la moneta unica non può far da scudo in questo caso, dal momento che le politiche fiscali, economiche, eccetera, sono diverse tra di loro. Viceversa, gli Stati Uniti hanno una sola politica, hanno ancora un nome molto forte a livello mondiale. È vero che la situazione dell'economia non è brillantissima, è vero che ci sono le elezioni di medio termine che potrebbero deludere il presidente in carica, però al tempo stesso l'economia americana è ancora la prima economia mondiale, viene ancora percepita come l'economia che può guidare in maniera importante l'Occidente verso una possibile ripresa nel corso dei prossimi anni. Ecco perché la domanda di questi prodotti, degli strumenti americani, rimane di livelli molto elevati. Ed è forse questo anche il motivo perché in due giornate come quella di ieri e di oggi, le chiedo conforto a questa opinione, se me lo può dare, se no ne esprimerà un'altra, con dei dati così pesanti, soprattutto sul settore immobiliare, alla fine la borsa americana è quella che va meglio. Esattamente, è la contraddizione che dimostra, una contraddizione relativa, dimostra chiaramente che pur scendendo scende in maniera molto meno forte dell'Europa, perché l'Europa è più attaccabile, come dicevo prima, perché i paesi europei intanto non si sanno vendere a livello mondiale, non hanno la capacità di marketing che hanno gli Stati Uniti. In secondo luogo, le agenzie di rating, come lei vede, attaccano sempre i paesi europei, mentre l'America, il Regno Unito stesso, pur avendo dei debiti importanti, pur avendo un rapporto deficit-PIL molto elevato, addirittura a livelli di quello della Grecia, però sul rating loro non si discute, se ne parla ma non se ne è ancora discusso. Qua invece, come vedi, in Europa intervengono continuamente, quindi questo si riflette negativamente sulle borse, perché a sua volta gli investitori temono che l'Europa sia molto più debole negli Stati Uniti. In realtà così non è, però la percezione degli investitori è questa, i mercati ne riflettono l'impressione. Sì, come se l'Inghilterra e gli Stati Uniti fossero dei pesci un pochino troppo grossi da azzannare. Non è che fossero, sono. Lo sono, lo sono a tutti gli effetti. C'è una domanda di un ascoltatore al 349-238-6666 che ci porta poi anche sull'argomento più generale, cioè ci chiede Luca chi ha in portafoglio bond di banche irlandesi deve temere qualcosa di più da oggi, a prescindere dall'oggi, diciamo così. Lei che cosa si aspetta per i prossimi mesi per quanto riguarda i cosiddetti paesi periferici, quindi l'Irlanda ma anche noi? Io credo che l'Irlanda abbia già attuato una politica importante e in parte in effetti sorprende questo calo del rating che è stato deciso da Standard & Poor's. L'Italia stessa è già intervenuta con la legge finanziaria che nel 2011 dovrebbe già iniziare a dare dei risultati abbastanza interessanti e di conseguenza è chiaro, non scenderà il livello del debito complessivo dell'Italia, ma il rapporto deficit-PIL dovrebbe tornare su livelli più interessanti, quindi inferiori a quelli di oggi. Per quanto riguarda le prospettive dei titoli sia irlandesi sia italiani, io non ho particolari timori. Sicuramente cosa potrebbe accadere nel corso dei prossimi mesi? Potrebbe accadere che vi siano nuove fasi di tensione create ad arte dalla speculazione internazionale, perché è evidente che se la speculazione internazionale non riuscirà più a guadagnare sui mercati azionari, dovrà rivolgersi a un altro mercato, o lo fa sul valutario o lo fa su quello obbligazionario, quindi non è da escludere che vi siano interventi di nuovo pesanti a partire dalla Grecia, ma che toccheranno poi in maniera meno pesante ma neanche trascurabile sia gli altri paesi meno virtuosi, quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se nel corso della parte finale di quest'anno si assista a nuove cadute delle quotazioni, anche se ritengo non saranno drammatiche. Quindi Drusiani, mi sembra di capire che concorda con il tesoro irlandese, insomma questo giudizio di Standard & Poor's è un po' troppo netto. Sì, e conferma una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che l'area euro è sotto attacco non solo della speculazione, ma viene a una considerazione secondo me un po' minore, un po' più fredda nei confronti dell'Europa di quanto ci siano nei confronti degli Stati Uniti. Anche perché mi rendo conto che non è così semplice andare dal segretario all'economia americana e dire ma guarda, forse il vostro rating è troppo alto, vorremmo abbassarlo. Secondo me è un po' più complesso. Sì, decisamente più complicato che farlo magari con il ministro del tesoro irlandese. Esattamente. Grazie ad Angelo Drusiani, responsabile investimenti di Banca Albertini Sitz, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, arrivederci. A chi ci chiede ma le agenzie di rating chi le controlla e le giudica, fa esattamente la domanda che si stanno facendo tutti da qualche tempo, ed è esattamente il problema al centro dell'attenzione, il motivo per il quale una serie di paesi come l'Irlanda oggi hanno decidono qualche volta di reagire a questi abbassamenti di rating così repentini e che non vengono considerati sempre proprio giustificati. La borsa. Livia Zancaner, Radio Core Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Come si diceva prima, i dati cattivi arrivano dagli Stati Uniti, ma l'impatto negativo arriva sulle borse europee. Sì, infatti, allora i listini avevano già aperto la seduta in territorio negativo per poi ampliare le perdite dopo la pubblicazione dei dati macro che, come alla vigilia, sono risultati inferiori alle attese. In particolare è il dato americano sugli ordini di beni durevoli che sono saliti meno del previsto e le vendite di case nuove si sono attestate a livello minimo dal 1963. Sì, quindi come si dice il Dow Jones lascia sul terreno appena lo 0,18%, Milano invece chiude con il FTSE MIB giù dell'1,16% e il FTSE All Share dell'1,04%. Iniziamo dai titoli migliori per una volta, va, e da Atlantia in particolare, Livia. Sì, allora Atlantia è stata la migliore sul paniere principale, ha guadagnato l'1,05%. Allora le azioni hanno iniziato a salire fin dall'apertura dei mercati dopo aver perso il 5% circa dalla chiusura del 18 agosto. Allora dalle sale operative hanno spiegato che gli acquisti sono dovuti solamente a un rimbalzo tecnico con volumi nella media. Infatti i volumi sono stati pari a 2,2 milioni, sì, lievemente superiori alla media giornaliera dell'ultimo mese. Il mercato però punta anche su un aumento del traffico autostradale, considerando che nella semestrale pubblicata il 3 agosto Atlantia ha evidenziato un traffico in crescita nei primi 6 mesi dello 0,7%, quindi ci si aspetta che il trend continui anche nel secondo semestre. Positive Snam Rete Gas dello 0,96%, Terna dello 0,80% e Telecom Italia dello 0,30%. C'è un motivo particolare per Telecom, Livia? Sì, allora bisogna dire che il settore telecomunicazioni in Italia ha chiuso appena sotto la parità, cioè in Europa ha chiuso appena sotto la parità con un calo dello 0,15%. In realtà per quanto riguarda Telecom, appunto, che ha terminato la seduta in territorio positivo, vi sono le attese per la decisione della GCOM, che è l'autorità delle comunicazioni, in merito alla richiesta della società di incrementare il canone di affitto della rete telefonica. Infatti l'autorità aveva proposto un aumento a 9,77 euro al mese per il 2010-2012, che è un ritocco però più modesto da quello dalla richiesta che era stata fatta da Telecom. E secondo gli analisti, a regime un aumento del canone per Telecom potrebbe comportare una crescita del fatturato e del margine operativo lordo di circa 70 milioni di euro. Oh, veniamo alle note negative, anche perché quelle positive sono finite se considerate che Bulgari è in perfetto pareggio e tutti gli altri titoli sono appunto in negativo. Iniziamo da Buzzi Unicem, -3,48%. Sì, allora Buzzi Unicem è il peggior titolo del paniere principale. Allora le azioni sono sotto pressione dai primi di agosto. Dal 2 agosto infatti il titolo ha perso oltre il 16% sulla scia del momento negativo che sta vivendo il comparto costruzioni e il settore del cemento. Nell'ultimo periodo infatti, oltre ai timori sulla ripresa dell'economia che penalizzano tutti i titoli e tutte le borse, sul settore costruzione hanno influito in particolare i conti negativi pubblicati da alcune società del settore, tra cui il gruppo irlandese CRH che ha pubblicato i conti ieri e la svizzera Holcim. Inoltre, per quanto riguarda proprio Buzzi Unicem, il 2 agosto la controllata tedesca di Kerhoff aveva pubblicato risultati in calo. Sì, ci ricordiamo, anche se in questo quadro complessivamente negativo, nel quale con una possibile recessione in vista sono sempre penalizzati i titoli delle costruzioni, Italcementi scende solo dello 0,62%, e dico solo perché la giornata è molto peggiore per un sacco di altri titoli, per esempio Livia, i bancari. Sì, allora oggi è stata una giornata debole infatti per il comparto bancario, che in Europa ha perso l'1,6% circa. Non vi sono novità appunto a livello europeo sui titoli delle banche, se non appunto i timori su un rischio di una possibile recessione. In Italia invece vi saranno delle novità a partire da domani, giornata da cui inizierà quindi la pubblicazione dei conti degli istituti di credito italiani. Quindi domani sarà la volta di MPS e della Banca Popolare di Milano, mentre dopodomani toccherà Intesa San Paolo, che ha ceduto il 2,4%, il Banco Popolare e UbiBanca, mentre Unicredit ha già pubblicato i conti e oggi ha ceduto il 2,79%. Infine ti chiedo di Fiat. Sì, allora Fiat ha chiuso in calo dell'1,46% in un settore negativo. Oggi sono arrivati ieri ulteriori indiscrezioni in merito all'andamento delle vendite di auto a luglio. Ricordiamo che ACEA diffonderà i dati sia di luglio sia di agosto il 15 settembre. La società di consulenza IATO ha infatti comunicato che le vendite di auto dei Fiat in Europa a luglio sono scese del 32,6% su base annua, mentre il mercato è sceso solamente del 17,4%. In realtà comunque queste cifre dovrebbero essere sostanzialmente in linea con le indicazioni degli analisti, quindi in realtà non vi sono particolari sorprese. Bene, vedremo che cosa succederà su questo fronte. Grazie nel frattempo a Livia Zancaner di Radio Coro Il Sole 24 Ore. Buonasera Livia. Buonasera. Un quadro finale di giornata vede, come si è detto, negativi tutti i bancari. Monte dei Paschi giù del 2,80, Mediobanca del 2,31, Intesa del 2,43, Unicredit del 2,7, giù anche Azimut del 3,07%, negativa anche Luxottica del 2,25, Impregilo dell'1,95, Fondiaria Sai dell'1,94, Ansaldo dell'1,8 e ancora Geox dell'1,65, 1,5% di calo circa per Banco Popolare, Fiat si è detto, Unipol, ST Microelectronics giù dell'1,34, Pirelli dell'1,25, dell'1,1 UBI Banca, Saipem, la Popolare di Milano, CIR dello 0,82, dello 0,6 Mediaset, Eni Italcementi di 0,5% Prismian, Enel altrettanto, A2A dello 0,46 e dello 0,4 Campari e Generali, dello 0,25 Finmeccanica, dello 0,21 Parmalat ed Exor, Lottomatica dello 0,10, Mediolan dello 0,09 e Autogrill dello 0,06. Il resto ve l'abbiamo detto. Cambiamo argomento e passiamo agli interventi della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e del presidente delle Generali Cesare Geronzi al meeting di CL in corso a Rimini. Come vi abbiamo fatto sentire nei nostri titoli, nelle nostre notizie in breve della giornata, che cosa ritiene la presidente di Confindustria sul governo? Questo governo deve andare avanti e deve governare. È necessario in un contesto di ripresa fragile parlare di elezioni, di una politica che si continua ad insultare e non si concentra sui problemi veri, è inaccettabile. Ma chiede anche altro alla politica, ossia di essere concreta e composta. Qui non si tratta solo di uscire dalla crisi, qui si tratta per chi fa impresa come noi di capire come ripensare le proprie imprese, come riuscire a conquistare mercati nuovi, come ripensare completamente se stessi. Allora, in una fase come questa, la prima richiesta che noi facciamo alla politica in particolare è la concretezza, stare sui temi veri del lavoro, della crescita, della disoccupazione. Non ci interessano contese leaderistiche, personali, i cognati, gli appartamenti, le amanti, a noi non interessa nulla di questo, a noi interessa la crescita, il lavoro, l'occupazione, i giovani. Allora noi chiediamo, prima di tutto ognuno di noi deve fare il proprio mestiere, i banchieri, gli imprenditori, tutti, ma in particolare, siccome noi crediamo nella politica, però chiediamo nella politica che è servizio, nella politica alta, che sa capire e dare una strada, noi chiediamo alla politica, la prima cosa è proprio la concretezza, stare sui temi veri, quelli che interessano alla gente come noi. E la seconda cosa che noi chiediamo, e questa sì la chiediamo soprattutto alla politica, noi chiediamo compostezza negli argomenti, nello stile e nel linguaggio. Avete sentito che la presidente di Confindustria accennava al tema della crescita, ha toccato questo tema nel suo intervento, ritornando su quel che dicevamo prima, ossia le difficoltà dell'America, le difficoltà dell'Europa, la Cina che va bene ma rallenta lievemente, quindi un clima di incertezza. In questo quadro la priorità per l'Italia deve essere proprio la crescita. Se noi non torniamo a crescere almeno al 2% all'anno, noi non riusciamo a risolvere il problema della disoccupazione, noi continueremo a avere un reddito medio delle famiglie che cala, potere di acquisto che calano, come dire, meno fiducia delle persone. Allora, il vero tema è tornare a crescere a una percentuale più alta rispetto a quella che abbiamo avuto negli ultimi anni. E siamo sempre con le parole della Presidente di Confindustria dal meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Se l'Italia vuole mantenere un futuro nel settore manifatturiero, è arrivato il momento di cambiare radicalmente le relazioni industriali, dice Emma Marcegaglia, facendo esplicito riferimento alla vicenda della Fiat a Pomigliano. La cultura del lavoro che c'è nel nostro paese è una cultura del lavoro seria, la stragrande maggioranza dei nostri lavoratori è gente molto seria e il successo delle nostre imprese noi lo dobbiamo a quei lavoratori, però non è più accettabile che quando c'è un'impresa come la Fiat, ma non è solo la Fiat, che decide di investire 20 miliardi di euro in Italia, fa una delocalizzazione al contrario, porta una produzione dalla Polonia, dove si lavora benissimo, anch'io ho un'azienda in Polonia, e la riporta in Italia, non la riporta a Rimini o a Mantova, la riporta a Pomigliano d'Arco, che non è un posto, come dire, carinissimo, è un posto difficilissimo dove lavorare, la riporta lì. E che cosa chiede in cambio? Chiede che se fa un contratto con i sindacati, se dice dobbiamo lavorare 21 turni, dobbiamo raggiungere una certa produzione, dobbiamo raggiungere un certo livello di produttività, chiede semplicemente che in cambio, come dire, di un certo salario, di alcune condizioni, dall'altra parte i lavoratori rispettino questo. Allora questo è attentare ai diritti, questo è sacrosanto. Allora io penso che il tema Pomigliano, il tema Melfi, di cui parlo tra un minuto, è fondamentale, perché se questo paese vuole continuare ad avere un'industria competitiva qua in questo paese, allora noi dobbiamo avere relazioni sindacali non cinesi, ma dobbiamo avere relazioni sindacali come in tutti gli altri paesi occidentali, come in Germania, come negli Stati Uniti, come negli altri paesi. Allora o noi tutti insieme facciamo un salto in avanti su questo, oppure questo paese andrà in declino, io lo voglio dire molto chiaramente, o noi facciamo un cambiamento forte o non ci sarà più nessuno che investirà in questo paese. Così invece la Presidente di Confindustria sulla vicenda di Melfi. Dal nostro punto di vista la Fiat sta seguendo la legge, sta seguendo una prassi normale, ma ripeto, il problema non è questo. Il problema è certamente tutelare i diritti di quei tre lavoratori, ma è anche tutelare i diritti degli altri lavoratori che invece vogliono lavorare e, permettetemi di dirlo, è anche di tutelare i diritti dell'impresa, perché ribadisco, se un'impresa investe, un'impresa fa un accordo per un certo livello di produttività, un certo livello di produzione, quell'impresa ha il diritto, come succede in tutte le altre parti del mondo, di vedere questo contratto eseguito fino in fondo. Allora, o noi facciamo questo passaggio culturale, oppure veramente io credo che avremo problemi. Quindi il primo tema è questo, la mia Confindustria su questo tema intende andare avanti, senza rotture, senza conflittualità se possibile, perché la conflittualità fa male a tutti. Io penso che questi siano momenti in cui il conflitto di classe proprio lo dobbiamo dimenticare. Questo è un momento ancora più che nel passato dove le sorti dell'imprenditore, dell'impresa e le sorti dei lavoratori sono unite. O noi riusciamo a vincere la competizione, allora ci sarà lavoro, più salario per i nostri collaboratori, o se noi perdiamo la sfida, non siamo in grado di stare sul mercato internazionale e perdiamo tutti. All'incontro era presente anche il presidente dei Generali, Cesare Geronzi, che si è soffermato sui temi del lavoro. L'impegno del governo è valso a evitare impatti straordinari della crisi finanziaria globale. Gli ammortizzatori hanno svolto un ruolo importante, ma occorre ora guardare alla prospettiva in maggiore lontananza. Una nuova regolamentazione dei rapporti di lavoro, un nuovo statuto, non dei lavoratori, ma dei lavori, che privilegi, secondo le linee che stanno emergendo, il momento della partecipazione di chi lavora al processo produttivo aziendale, prevedendo un più efficace aggancio dei salari alla produttività, senza tuttavia superare alcune garanzie di carattere nazionale, potrebbero essere la via da seguire secondo un modello di nuova, diversa concertazione. Infine, nell'intervento di Cesare Geronzi, anche un passaggio sulle banche. Occorre dare concretezza a tutti i livelli, al principio di sussidiarietà che oggi ha pure rilievo istituzionale. Un ruolo rilevante spetta al mondo del credito e della finanza. Dobbiamo operare con decisione per migliorare l'immagine e in generale il rapporto con la clientela, imprese e famiglie. Prima ancora di insistere su posizioni rivendicazioniste nei confronti delle istituzioni della politica, quelle posizioni saranno più forti se si sarà data prova di essersi autonomamente mossi per darsi carico delle esigenze dell'utenza ed anche degli interessi del Paese. Questo è il quadro dal meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Cambiamo argomento e passiamo a parlare di Tirrenia. Le novità ve le abbiamo date ieri. Il ministro Matteoli ha convocato i sindacati per lunedì 6 settembre. Si è parlato di una bad company, poi la notizia è stata più o meno smentita, ossia una bad company, una società nella quale mettere tutti i debiti per poi vendere la parte buona di Tirrenia. E poi la regione Sicilia che dice di essere ancora incerta sulla nuova offerta, e oggi il presidente della Sicilia Lombardo dice: noi non sottoscriveremo l'aumento di capitale di Mediterranea e quindi la nostra quota percentuale diminuirà. Per Tirrenia c'è già un'offerta presentata e poi ha intenzione di cedere le quote di Mediterranea ai lavoratori. Io saluto Nicola Coccia, buonasera. Buonasera. Ed è ex presidente di Confitarma, che riunisce 230 armatori italiani, ed è anche azionista di Mediterranea. Protagonista all'inizio di tutta questa vicenda del tentativo di raccogliere gli armatori italiani per mettersi intorno a un tavolo e capire che cosa si vuol fare di questa benedetta Tirrenia, con la scadenza che sappiamo è il 30 di settembre. L'Unione Europea impone che l'azienda sia privatizzata entro quella data. Allora Coccia, la sua idea di riunire intorno a un tavolo gli armatori italiani mi sembra che esista ancora. Che cosa intende fare in questo tavolo? Ma guardi, questa è stata sempre una mia vecchia posizione. Cioè, noi armatori italiani, il cabotaggio in particolare, ha sempre subito una limitazione forte dalla presenza di Tirrenia, perché era un competitor, diciamo, tra virgolette, scorretto. C'era una competizione non trasparente. Che le posso dire? Basta pensare che gli armatori privati erano in competizione con un soggetto che aveva delle linee in alcuni mesi, nei mesi estivi, nei mesi più ricchi, fuori dalla convenzione, quindi si comportava come un privato e metteva le stesse linee in convenzione, quindi con contributo dello Stato nel periodo invernale. Quindi c'è stata una vera difficoltà allo sviluppo del cabotaggio. Oggi che si sta concludendo per decisione comunitaria, per cui non è possibile se non con gare dare contributi, certamente è assurdo pensare che sparisca la Tirrenia e che tutti vanno a casa e così via. Certamente bisogna, come armatori privati, dare una mano a trovare le soluzioni più opportune. E lo scenario è uno scenario in forte cambiamento. Attualmente è uno scenario che, in cui è possibile che ci sia un po' di tutto. Infatti, fino ad oggi non è stato ancora sciolto il nodo principale: se la comunità autorizzerebbe al rinnovo a Tirrenia della convenzione e quindi dei famosi contributi. Io ho delle perplessità, sì, che ciò sia mi scusi Coccia, quindi la sua ipotesi è di riunire questi armatori intorno ad un tavolo come per un consulto, in realtà, non per un progetto finanziario? No, per un consulto no, anche per un'acquisizione. Cioè, io su questo argomento c'è molta confusione. Io vorrei chiarire due o tre punti che a me sembrano abbastanza evidenti. Le chiedo di essere breve perché abbiamo sì, poco tempo. Assolutamente. Si è parlato di bad company. Difatti, col commissariamento, con questa procedura, cioè che tutti i debiti rimangono al commissario e deve essere ceduta l'azienda nel suo complesso senza debiti, difatti è come se si fosse già realizzata la bad company. Secondo, il commissario e nessuno in questo momento può garantire all'acquirente dell'azienda Tirrenia che ci saranno in futuro i contributi, perché questo la comunità non lo ammette, non lo consente, non lo autorizza, se non attraverso una gara che non è più la privatizzazione, è la gara che verrebbe fatta linea per linea, a cui possono partecipare tutti. Allora sono questi i nodi intorno al quale, una volta sciolti, i privati possono avere un ruolo significativo. Sì, io non ho capito una cosa. Se degli armatori diretti concorrenti si comprano Tirrenia, e poi nei fatti la spezzettano tra loro, o no? Ma guardi, degli armatori, quelli che operano sul cabotaggio, hanno tutto l'interesse a salvare le linee profittevoli, a cambiare d'abito a questa azienda e a renderla compatibile con la loro attività. Lo spezzettamento non è necessario assolutamente. Ok, e sul fronte dei contatti come è messo lei, ma coach? Guardi, diciamo sì, io sono sempre convinto e sto facendo grande opera di convincimento che seguendo tutte le varie evoluzioni è possibile salvare per motivi occupazionali, sociali, anche storici questa azienda. Certo che dovrà cambiare radicalmente e qualcuno ci crede, qualcuno non ci crede, però... Quanti le hanno creduto fino adesso, coach? Ce lo dica. Certamente un italiano e certamente un greco. Ok, che quindi sono i soci dentro Mediterranea? No, perché Mediterranea è nato in uno scenario diverso e adesso Mediterranea... No, però dico, sono disposti ad uscire e a seguire questo progetto. Sì. Benissimo, io la ringrazio per questo chiarimento e anche per questa notizia che ci ha dato. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie a Nicola Coccia, ex presidente di Confitarma, azionista di Mediterranea e quindi alla guida di questo, come dire, di questo gruppo di armatori che si sta creando, insomma. Salve, buonasera. Buonasera. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Mauro Del Corno in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.